E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vicenda Pomigliano d'Arco, ossia la fabbrica campana della Fiat. Ancora non ci sono notizie dal direttivo della CGIL, FIOM. È il sindacato che da un lato ha il 40% degli iscritti a Pomigliano, dall'altro non ha ancora sciolto la riserva con un'opposizione iniziale a quello che è la proposta Fiat. Ne parleremo in tutta l'apertura del programma come primo tema. Sergio Marchionne ha fatto sapere molte volte che se non si troverà un accordo Fiat dovrà spostare la produzione o non far arrivare la produzione nel caso della Panda dalla Polonia a Pomigliano e quindi che Pomigliano è destinata a chiudere. In realtà su questo, come hanno scritto oggi molti osservatori sui quotidiani, si gioca non solo il futuro di Pomigliano d'Arco, fabbrica difficile quanto a produttività, poi ne parleremo, insomma, in cui con il massimo rispetto per i sindacati ci sono anche delle responsabilità. La fabbrica ha avuto dei grossi problemi a livello proprio di ufficio del personale, potremmo dire assenteismo, per un eccesso di permessi anche di vario tipo, malattie. La Fiat già ci aveva messo le mani qualche anno fa, adesso si tratta di aumentare la produttività e di trovare un accordo per mantenere in vita la fabbrica. C'è una resistenza non totale, perché abbiamo visto anche alcune dichiarazioni di Guglielmo Epifani, che è il segretario della CGIL, a cui la FIOM appartiene, abbastanza di apertura, però ancora la riserva non è stata sciolta. Dicevo, su questo si gioca non solo il destino di Pomigliano d'Arco, ma anche in generale, secondo quanto scrive Pietro Ichino oggi sul Corriere della Sera, che sarà nostro ospite fra qualche minuto, anche in generale il futuro della capacità che ha il sud del paese di attrarre investimenti se chi dall'estero viene a investire ottiene anche un po' più di flessibilità nelle condizioni del lavoro rispetto a altre parti del paese. Poi, come sempre, i mercati vanno molto bene oggi, va molto bene soprattutto Milano, più 2,70% in questo momento. FTSE MIB sopra i 20.000 punti, bene anche Parigi più 2,1, Francoforte più 1,4, Londra più 0,35, la più modesta delle borse oggi Londra. L'America è ben intonata, più 1% il Dow Jones, più 1,4% il Nasdaq. Da segnalare soprattutto il recupero dell'euro, che viaggia ormai verso quota 1,23, era sceso a 1,19 una settimana fa, siamo a 1,22,80, nonostante speculazioni, indiscrezioni, poi smentite, di un piano tedesco per salvare la Spagna. Niente proprio di meno che questo. Spagna, su cui i paesi europei, da quello che si è capito con i dati usciti in questi giorni, sono esposti per circa 600 miliardi di euro, cifra ben diversa dall'esposizione nei confronti della Grecia, che se non ricordo male arrivava scarsamente a 150 miliardi di euro, 100 francesi, 40 tedeschi e una decina italiani come esposizione delle banche. Comunque vado a memoria, tra i titoli Unicredit molto forte, più 5,4% a 1,84 euro, molto bene Pirelli, più 4,2% a 50 centesimi, quasi 49 centesimi e 15. Fondiaria SAI più 4%, Azimut più 3,90, Geox più 3,80, Tenaris più 3,5 come Banco Popolare e le Generali. Il 3,20 guadagna Fiat e anche Prismian e Autogrill. Il 3,1% è il rialzo di Intesa San Paolo, ma anche della Popolare di Milano. Chiudiamo con Saipem più 2,90, Monte dei Paschi più 2,80%, Italcementi più 2,70, CIR 2,5% di rialzo come Impregilo ed Exor, ma anche Mediolanum il 2%, infine lo guadagna Buzzi Unicem. Chi perde oggi? Solo Luxottica, uno 0,4%. Dopo la borsa ci occuperemo appunto anche della Spagna, il perché di questi nuovi timori sulla Spagna in generale, come si sta muovendo il paese che fino a qualche settimana fa veniva indicato come la possibile prossima Grecia, chiaramente con ricadute enormi su questo. Nella seconda ora del programma tratteremo i temi legati anche alla manovra finanziaria, alle iniziative per le piccole e medie imprese. Sarà nostro ospite infatti il presidente di Asso Lombarda, Alberto Meo Martini, oggi l'associazione degli industriali più importante come territoriale a livello italiano, ha tenuto la sua assemblea e si è parlato anche molto di legge finanziaria, di iniziative per le imprese, soprattutto quando piccole, e anche qualche cotè strascico del ruolo che dovrebbero avere gli industriali se scendono in politica. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Dicevamo della Spagna, ne parleremo. Comunque le ha definite pure speculazioni Bruxelles l'ipotesi che ci sia un piano tedesco o anche complessivamente europeo, una cintura di sicurezza da mettere attorno alla Spagna. Mi fate notare al 349-238-6666 che non abbiamo dato il petrolio, adesso lo diamo. È in rialzo oggi a $75,80 al barile, più 2,8%, è di nuovo crollata la British Petroleum a Londra, sempre in tema di fonti energetiche e di energia, meno 10%. Ancora per quello che riguarda il piano di salvataggio della Spagna, volete sapere a quanto ammonta l'esposizione? Insomma, le banche europee, sempre di banche stiamo parlando, sono esposte di circa 600 miliardi. Le banche italiane nello specifico hanno un'esposizione bassa, complessivamente non così bassa come quella verso la Grecia, ma sono a $50 miliardi. Le più esposte sono le francesi, 200 miliardi, seguono le tedesche, 170 miliardi, e poi questa è una novità, anche le banche americane, che invece in Grecia nulla avevano solo fatto da consulenti su come truccare i conti, o meglio strutturare il debito, per usare un linguaggio più alto. Invece in Spagna anche le banche americane hanno 140 miliardi di esposizione. E poi la dichiarazione del nostro ministro degli esteri Franco Frattini, che ha detto: se non si arriverà a un riferimento, quando si parlerà dei debiti dei vari paesi europei, al debito aggregato, cioè la somma del debito pubblico più i risparmi o il debito privato, l'Italia potrà porre il veto all'intero documento che deve varare l'Unione Europea. L'Italia in questo ha un interesse ad avere un debito che sia la somma di quello pubblico e privato. Noi abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa, però abbiamo anche i risparmi tra i più alti d'Europa, mentre molti paesi hanno un basso debito pubblico e però anche degli alti debiti privati o dei bassi risparmi privati. Va detto che è importante, a visione generale, ricordare anche i risparmi delle famiglie italiane, però per i conti pubblici, per la statistica, insomma, non è che tu possa sommare debito pubblico con risparmi privati, o diciamo sostieni che anche i risparmi privati possono finire a finanziare il debito pubblico con una patrimoniale o con una formula che ancora non si riesce a capire, o se no i risparmi privati sono dei privati, il debito pubblico invece è del paese. E prima di iniziare a rispondere ai messaggi, fermo restando che è importante sapere se poi, come negli Stati Uniti, anche le famiglie sono indebitate, oppure come in Italia le famiglie sono poco o nulla indebitate. L'OCSE, il dato sulla disoccupazione per quello che riguarda il mese di aprile: ci sono stati 3.300.000 disoccupati in più rispetto all'aprile del 2009 nei paesi OCSE. In Italia, per fortuna, nei paesi OCSE per fortuna è ferma all'8,7%, in Italia la disoccupazione è salita all'8,9% nel mese di aprile contro l'8,8% di marzo. E rallenta la crescita della produzione industriale nell'area euro ad aprile, più 0,8% contro l'1,5% di marzo, e la ripresa rallenta soprattutto in Francia, meno 0,4%, l'Irlanda malissimo, meno 10,1% la produzione industriale, male anche il Portogallo, meno 4,4%, Grecia meno 3,4%, Spagna e Gran Bretagna meno 0,3%, bene la Germania più 0,8% e soprattutto l'Italia più 1%. Allora, ancora due notizie, poi partiamo con Pomigliano d'Arco. Per quello che riguarda l'Italia, le retribuzioni nei primi tre mesi dell'anno sono cresciute del 3,6% rispetto ai primi tre mesi del 2009, lo dice l'Istat, quindi più dell'inflazione che è pari all'1,3%. Sul calo delle entrate tributarie, delle tasse che gli italiani pagano, questo calo è rallentato, continua a esserci, ha fatto un meno 1,2% nei primi quattro mesi dell'anno. Bene, dice sempre l'Agenzia delle Entrate, anzi Dipartimento delle Finanze, la lotta all'evasione, nei primi quattro mesi gli incassi sono saliti del 33,4%. Però sull'ottimismo, arriva oggi dalla Banca d'Italia, che fa notare come anche ad aprile il debito pubblico italiano è praticamente salito per la quarta volta consecutiva. Il nostro debito ha toccato ad aprile il record di 1.812,7 miliardi di euro contro i 1.797,7 miliardi del mese di marzo. Quindi in un mese il nostro debito, se tanto mi dà tanto, è cresciuto di 15 miliardi di euro. Preoccupante, perché 15 miliardi è il valore del... un po' di meno, ma insomma una manovra da 24 miliardi, 15 in un mese. Cerchiamo di capire poi più avanti che cosa è successo. Partiamo col primo tema allora, perché sennò col debito mi deprimo subito. Il primo tema riguarda Pomigliano d'Arco, visto che oggi sono attese le decisioni della FIOM su Pomigliano, e intanto, mentre i metalmeccanici, appunto la CGIL, è dalle 14 che sono riuniti, non dovesse esserci l'accordo della FIOM, che appunto ha il 40% degli iscritti, difficilmente potrebbe passare questo accordo, e quindi, secondo quello che si è capito, la Fiat andrà a produrre altrove. Allora, il tutto mentre c'è anche una dialettica, chiamiamola così, interna tra la FIOM e la CGIL, cioè la casa madre, perché insomma il segretario Guglielmo Epifani ha detto, insomma, attenzione, Pomigliano non ha alternative, Napoli non ha alternative sul suo territorio, come dire, tradotto, non tiriamo troppo la corda, perché lì è un territorio che non è che se va via la Fiat si possa rimpiazzare in un secondo con, o anche in un anno o in cinque anni con un altro gruppo. Il progetto Fiat da Fabbrica Italia prevede, quello che si chiama Fabbrica Italia, avete visto forse anche la pubblicità in questi giorni, prevede 20 miliardi di investimenti per portare la produzione di auto in Italia dalle attuali 650.000 a 1.400.000 auto prodotte nel nostro paese ogni anno, di cui 1 milione destinate all'export. Quindi si vanno a raddoppiare le auto prodotte in Italia. Pomigliano ha 5.200 addetti che producono l'Alfa 147, la GT, la 159 e la Fiat Bravo. Il Lingotto vorrebbe trasferire qui la produzione della nuova Panda, che attualmente viene prodotta in Polonia, però chiede delle condizioni sui contratti, sull'orario di lavoro, in particolare 18 turni settimanali per 6 giorni, come ci racconta questa scheda. I piani del Lingotto per Pomigliano d'Arco e i suoi 5.200 dipendenti prevedono 700 milioni di investimenti e il trasferimento dalla Polonia allo stabilimento campano della produzione della Panda. Fiat chiede però in cambio alcune modifiche alle condizioni lavorative che aumentino la produttività della fabbrica napoletana. Innanzitutto viene chiesto di organizzare la produzione su tutte le 24 ore e dunque tre turni da 8 ore per operai, impiegati e quadri. La produzione settimanale verrebbe inoltre distribuita su 6 giorni e non più su 5, con i dipendenti che alterneranno una settimana da 6 giorni lavorativi ad una da 4 giorni. È previsto un accorciamento da 40 a 30 minuti delle pause durante l'orario di lavoro e lo spostamento a fine turno della pausa pranzo. Viene chiesta anche una gestione più flessibile degli straordinari. A ciascun lavoratore potranno essere richieste fino a 80 ore in più all'anno, con preavviso minimo e senza preventivo accordo sindacale. Limiti più stringenti sono previsti anche per quanto riguarda scioperi e malattie. In particolare è escluso il pagamento dell'indennità di malattia se il tasso di assenteismo complessivo dello stabilimento andrà oltre una soglia prefissata. Con lo scopo di migliorare la produttività, verrà inoltre posta molta attenzione sulla cosiddetta metrica del lavoro, vale a dire dei tempi e dei movimenti degli operai nelle loro mansioni produttive, che verranno misurati al centesimo di secondo tramite computer. Le proposte della Fiat hanno raccolto il via libera dei sindacati, con l'eccezione della FIOM. La sigla dei metalmeccanici della CGIL contesta in particolare a Lingotto di derogare agli accordi aziendali vigenti negli altri stabilimenti italiani e di venir meno ad alcune norme del contratto nazionale, a cominciare da quelle riguardanti i periodi di malattia. Allora, queste le proposte della Fiat e di quello che, per quello che riguarda insomma, i turni a Pomigliano d'Arco. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Pietro Ichino, che proprio oggi su Corriere della Sera ricorda il valore al di là di Pomigliano di questo di questa trattativa, di questo accordo. Professor Ichino, buonasera. Buonasera. Lei, lo dico per chi ne ascolta, è attualmente senatore del PD, primo firmatario di una proposta anche di riforma del mercato del lavoro, ma è stato nella sua vita oltre 4 anni alla FIOM e poi anche alla CGIL, quindi conosce bene diciamo, la cultura, l'universo di cui stiamo... Ho anche in tasca da 41 anni la tessera della CGIL, anche dopo aver smesso di lavorare per la CGIL è rimasta la mia casa, almeno dal punto di vista affettivo. Ecco, no, quindi è importante, se poi la critica alla FIOM arriva da chi la conosce bene, lo dico perché, non perché sia necessariamente più credibile, ma perché non la si può accusare di non conoscere il sindacato più importante dei metalmeccanici in questo paese. Prima di tutto però Vincenzo Miglietta sta seguendo la trattativa, allora ci colleghiamo con lui. Vincenzo, buonasera, novità? La novità è questa, buonasera, che si sta attuando un comitato centrale molto articolato proprio perché si stanno confrontando, come dicevi da studio, le due anime della CGIL FIOM, quella più vicina ad Epifani che invita comunque a raggiungere un compromesso perché a Pomigliano d'Arco non ci sarebbe alternativa, e l'altra parte della FIOM più oltranzista verso il no alla Fiat, verso la difesa di diritti che vengono considerati sanciti dalla Costituzione come le malattie, come il diritto di sciopero. Quindi un comitato centrale che è iniziato intorno alle 14, ancora in corso, dovrebbe andare avanti fino ad inizio serata, e si pensa che la FIOM potrebbe votare per un no al documento della Fiat e lasciare poi la decisione al referendum degli operai. Allora sì, tu hai già fatto capire insomma che la parte più oltranzista, più dura della FIOM dice attenzione, qui ci sono dei diritti, dei diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla malattia. Adesso però andiamo su un terreno molto delicato. Certo che bisogna capire anche qual è il tasso di malattia, perché se poi notiamo che in alcune realtà c'è un tasso di malattia doppio, triplo rispetto alla media del paese, bisogna chiedersi anche come mai. E Pomigliano d'Arco viene da una bruttissima tradizione da questo punto di vista, non ho problemi a sostenerlo, tant'è che già la Fiat 4 anni fa si dovette occupare di riformare, nel senso di rifare la formazione ai dipendenti e ai manager, perché c'erano delle sacche in cui addirittura si arrivò all'ipotesi di infiltrazioni camorristiche lì dentro. Attenzione. Comunque, la metrica del lavoro sono dettagli, la parte dei turni. Da quello che tu hai capito, Vincenzo, dov'è che potrebbe esserci un punto di caduta, un accordo, cioè sui turni più che sulla malattia? Ma Guarda, sono giorni che qui alla FIOM, anche venerdì seguendo l'incontro, mi è stato spiegato ripetutamente che non è un problema di adeguarsi alla produttività internazionale degli stabilimenti Fiat, cioè l'ampia disponibilità da parte del sindacato e degli operai stessi. È proprio un fatto di principio relativo al contratto che i nuovi operai, ma anche i vecchi, dovrebbero siglare rispettivamente alle assenze, ai primi giorni di malattia non retribuiti. Sono questi aspetti qui che vanno ad incidere sulla fiducia tra sindacato, in questo caso la FIOM, e l'azienda. Quindi non si tratterebbe di un fatto di produttività e dei 18 turni settimanali. Grazie, casomai ti ricollegherai con noi, Vincenzo, qualora dovesse arrivare la conclusione di questa vertenza, che è iniziata poco dopo le 14 nell'appunto alla FIOM, per quello che riguarda il comitato centrale. Allora, poi sentiremo anche le dichiarazioni di queste ultime 24 ore. La FIOM stessa, Bonanni, segretario della CIS, Marcegaglia, presidente di Confindustria, ministro Tremonti, ma insomma, professor Ichino, prima domanda: perché, che cosa ne pensa delle resistenze? Poi arriviamo al modello pomigliano. In un ordinamento pluralista, come è noto, ispirato al principio del pluralismo sindacale, di per sé non c'è niente di strano né di anomalo nel fatto che di fronte a un piano industriale fortemente innovativo ci siano dei sindacati che dicono sì e dei sindacati che invece ritengono di opporsi. Questo è normale, se no che pluralismo sarebbe? Il problema italiano è che il sistema di relazioni industriali non si è dato uno strumento per dirimere la questione, cioè per venirne fuori selezionando la coalizione maggioritaria che può stipulare il contratto con efficacia generale, vincolante e per tutti. In Italia abbiamo regole sindacali che consentono al sindacato, anche il sindacato dell'1% dei lavoratori, di proclamare uno sciopero a cui possono aderire l'1%, ma anche il 50% o il 100% dei lavoratori, compresi quelli iscritti ai sindacati che hanno firmato il contratto, compresi ovviamente quelli che hanno beneficiato delle provvidenze, delle miglioramenti previsti al contratto. Tutto questo genera una situazione un po' da dieta polacca, che è quella per cui Marchionne giustamente ha detto: o firmano tutti si impegnano, oppure l'accordo non si può fare. Ecco, ma chiarisco, paralizza l'innovazione, è un sistema che chiude il nostro paese all'innovazione. No, chiarisco il significato di dieta polacca, che non è il modo di perdere peso a Varsavia, ma è l'idea sostanzialmente che o c'è il consenso di tutti oppure non si può fare nulla. Questa era la regola che funzionava nel Parlamento, esatto, polacco nell'Ottocento. Sì, no, perché può anche essere, vista l'estate, ci può essere un fraintendimento su questo. Allora, la necessità di avere così un accordo bulgaro per restare nell'est Europa fa sì che sia anche molto difficile poter fare l'accordo, o praticamente impossibile, senza la FIOM, professor Ichino, a mio avviso. Detto questo, riprendendo anche molte delle critiche che arrivano al 349-238-6666, dicono insomma, ma le condizioni sono condizioni in qualche modo che vanno a ridurre i diritti dei lavoratori, sono condizioni capestro, scrivono alcuni, addio diritti. Siccome lei, ho detto, ha vissuto la FIOM, la CGIL, e attualmente anche per le sue idee non così ortodosse vive sotto scorta, lo dico anche a chi scrive, ci aiuti a capire: c'è il rischio di un paradigma, di un caso che poi diventa in qualche modo pratica per ridurre i diritti dei lavoratori dopo Pomigliano? Bisogna sempre aver presente due cose. La prima è che i diritti si difendono e si rafforzano anche combattendo gli abusi. Quando un diritto come quello alla tutela, alla retribuzione in caso di malattia, vede tassi di abuso altissimi e molto evidenti, perché ci sono situazioni in cui questa evidenza è del tutto indiscutibile, in quei casi il combattere l'abuso è l'unico modo in cui si può difendere il diritto. Poi ci sono diritti che come per esempio il diritto di sciopero, che non ha senso che vengano considerati come diritti assoluti e non suscettibili di pattuizione come un patto di tregua, perché la forza del sindacato sta nella capacità di negoziare, di scambiare la tregua sindacale con i vantaggi strappati alla controparte. Se si stabilisce il principio che il sindacato non può promettere la tregua e non può efficacemente obbligarsi a garantire la tregua, questo indebolisce il sindacato, significa sì. togliere al sindacato l'unica moneta di scambio di cui il sindacato Se posso tradurre, le dice, insomma, anche il sindacato dovrebbe ragionare sull'ipotesi di dire: noi possiamo portare sul tavolo la tregua sindacale, in cambio dateci qualcosa, non puoi sempre arrivare in tempo così breve alla minaccia di sciopero. Alcuni scrivono al 349-238-6666 di questo passo verrà introdotta la servitù della gleba. Vabbè. Per carità, tutto, ogni commento è ben accetto, ci mancherebbe. Altri, questo messaggio non lo capisco, su quante confezioni da 12 di canottiero, gabbie con canarini siano state sequestrate oggi ai cancelli di Pomigliano, non capisco veramente il messaggio. Altri dicono attenzione invece, perché, e lo scrivono anche dei tesserati della CGIL, a Napoli devono capire che esistono anche i doveri dei lavoratori, difendere i fannulloni è la rovina della CGIL, e su questo secondo me invece la riflessione è molto attenta, perché rischi di rovinare un'immagine e i diritti degli altri lavoratori per difenderne alcuni. E tra l'altro scrivono, professor Ricchino, molti operai e dipendenti di piccole fabbriche o medie che dicono: ma insomma, io da 4 anni che non faccio un giorno di malattia, perché nelle realtà piccole, poi lo sappiamo, Non tanto che i diritti siano meno tutelati, ci può essere, ma non è questo il problema, è che sei in meno e ti pesa molto di più stare a casa in malattia, sapendo che in questo modo si deve sacrificare qualcun altro al posto tuo. Due dati e poi la sua risposta. Allora, in Polonia, la Fiat, la Polonia non è terzo mondo, ci siamo su questo, allora, la Polonia con 5.800 dipendenti Fiat produce 600.000 vetture all'anno, la Fiat lì. Praticamente in Italia con 21.000 dipendenti produciamo una cosa analoga, 650.000 vetture. Allora è chiaro che qualcosa non torna, perché non può essere che l'operaio polacco valga 4 quasi o 3,5 operai italiani. Lì non è nemmeno un tema di produttività. Lasciamo stare il Brasile, dove con 700.000, con 8.700 dipendenti si producono 700.000 vetture, ma usiamo solo la Polonia. Professor Ricchino, che cosa c'è in gioco oltre allo stabilimento Fiat di Pomigliano? Ma innanzitutto c'è in gioco un paese che non cresce da 15 anni, un paese in cui i salari, le retribuzioni dei lavoratori a parità di mansioni sono di un terzo o metà inferiori rispetto al centro Europa o la metà rispetto alla Svizzera o altri paesi europei. Dobbiamo chiederci perché? E allora scopriamo che l'Italia è il fanalino di coda in Europa per capacità di intercettare gli investimenti nel mercato globale dei capitali. E dobbiamo chiederci che cosa significa questo. Significa avere molta domanda di lavoro in meno, ma soprattutto avere meno innovazione, perché le imprese multinazionali portano innovazione, che è l'unico modo per rendere più produttivo il lavoro e renderlo meglio retribuito. Ecco, come si fa ad aprirsi all'innovazione? Bisogna saper negoziare bene i piani industriali innovativi, sapendo che l'innovazione non si presenta mai a livello di intero sistema, quindi non può mai essere negoziata nel contratto collettivo nazionale. L'innovazione si contratta sempre a livello aziendale. E quindi occorre una contrattazione aziendale adatta a cogliere l'innovazione e attirare in Italia, sul nostro territorio, il meglio dell'imprenditoria mondiale. Per questo occorre anche un sindacato capace di essere davvero l'intelligenza collettiva dei lavoratori, che li aiuta a valutare la qualità del piano industriale, la qualità tecnica e anche etica di chi lo propone, di chi lo porta. Dobbiamo chiederci: Marchionne è un cialtrone, è un truffatore o è uno che ha dato buona prova di sé, che dove ha operato ha realizzato ciò che prometteva e ha mantenuto le promesse? Ecco, queste sono le domande che ci si deve porre. Ora, io non dico che l'innovazione sia sempre buona o che sia sempre da scegliere, può anche esserci l'innovazione cattiva o rischiosa o su cui non scommettere, ma il sindacato non può pregiudizialmente precludersi di fare questa scommessa, cioè stabilire a priori che qualsiasi cosa si discosti dal modello fatto proprio dal contratto collettivo nazionale è di per sé cattivo, sbagliato o il prodromo di servitù della gleba, perché questa è semplicemente una sciocchezza. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, per la parte relativa all'organizzazione del lavoro, all'inquadramento dei lavoratori, è ancora quello scritto nel 72. Di quella parte non è cambiata una virgola. Da allora a oggi è cambiato tutto. Allora non solo non c'erano i personal computer, non c'era internet, non c'era l'automazione nelle fabbriche, ma non c'erano neanche le fotocopiatrici e i fax nelle aziende. È cambiato tutto, ma il contratto collettivo è rimasto quello di allora, è rimasta quella di allora la struttura della retribuzione. Il cambiare, innovare nella struttura della retribuzione può portare a guadagnare di più anche se è una deroga al contratto nazionale. Sì, ecco, e tra l'altro io aggiungo, professor Ichino, perché insomma, ripeto, nelle altre fabbriche della Fiat, Cassino, Mirafiori, Melfi, questo problema evidentemente non c'è, perché la Fiat non ha fatto nessuna richiesta di maggiore produttività lì. C'è a Pomigliano d'Arco, enorme, storico, con, ripeto, non ho nessun problema a dirlo, ci furono anche casi di infiltrazioni camorristiche lì dentro, ragazzi, non scherziamo, lo dico a chi scrive. E poi a Termini Imerese, perché quella è una fabbrica che secondo la Fiat in ogni caso non è, dal punto di vista dell'approvvigionamento logistico, è nata per motivi, diciamo, di interesse, di richieste così di altro genere, quando la Fiat era anche la otteneva alcune cose per darne delle altre a livello di ammortizzatori sociali, e non ha più senso. In una battuta, perché siamo fuori tempo massimo, ci chiedono gli ascoltatori: ma esistono anche i capi reparto, i funzionari per controllare la produttività? Non è che ci sia solo il sindacato? Sì, certo, ma esistono anche delle coperture assicurative che contenute nel contratto di lavoro che possono generare degli abusi. Ora, dove non li generano, nessuno ovviamente si pone il problema di cambiarle, ma dove una copertura assicurativa genera un abuso diffuso, è bene, ma nell'interesse degli stessi lavoratori, di cambiare il meccanismo, istituire delle franchigie per evitare lo spreco e soprattutto evitare di premiare i disonesti, perché il lavoratore, ci saranno 10 lavoratori onesti che non abusano, ma basta che ce ne siano 2, 3 o 4 che sono assolutamente troppi, che abusano, e anche gli onesti vengono penalizzati. Certo, chiarissimo. Grazie a Pietro Ichino, docente di diritto del lavoro alla Statale di Milano e senatore del PD. Chiarissimo anche il messaggio di Pietro Ichino, che l'unico modello che ha al sud per attrarre investimenti è avere un po' più di flessibilità, non è una bestemmia. Lo dico a chi scrive, altrimenti l'alternativa è lavoro nero, lavoro per la criminalità organizzata e migrazione. Fine, cioè non ce ne sono. Se è meglio questo, vabbè, piuttosto che toccare il mantra della rigidità del contratto nazionale, teniamoci il lavoro nero, il lavoro sfruttato, il lavoro interinale e anche il lavoro camorristico. Sono 20.000 le persone in crisi nei call center in Italia, 15.000 nel settore ceramica, 5.000 in crisi nel mobile, nel settore mobile, 5.000 nella chimica, nell'installazione telefonica, 4.000 nella farmaceutica, 4.000 per il gruppo Merloni, 3.500 Omnia Network, 1.700 per l'ex Eutelia, 1.500 per il gruppo Burani. Posso andare avanti se volete, per cui insomma i casi critici significano 3.700 persone a rischio in Lombardia, 2.800 in Veneto, 1.000 in Emilia Romagna, 2.800 nel Lazio, 1.000 in Sardegna, 3.400 in Piemonte. Quindi non starei a sottilizzare, e poi vedo che c'è chi ha capito tutto, che mi scrive: tanto lei è amico delle banche. Bene, la borsa. E visto che sono amico delle banche, diamo subito la banca migliore di oggi: più 5,1% Unicredito a 1,84 euro, Pirelli più 4,3, come Fondiaria, più il 3,6% lo guadagna Azimut, il 3,5% Geox, il 3,5% anche Tenaris e Prismian e Generali, il 3,3% Autogrill e il Banco Popolare, ma anche Fiat, il 3,1% è il Monte dei Paschi, è il rialzo del Monte dei Paschi e anche di Italcementi e della Popolare di Milano. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, giornata tutta in positivo, soprattutto a Milano, perché Parigi guadagna il 2, Francoforte l'1,3, Londra lo 0,7, Milano più 2,7%. Allora, la giornata complessiva è poi Unicredit, Fondiaria e Pirelli. Sì, appunto, la giornata è stata particolarmente positiva su Milano perché, come al solito, a Milano contano di più bancari e titoli finanziari in genere, che sono quelli che oggi hanno guadagnato di più. Londra ha guadagnato un po' di meno, anche penalizzata dal forte calo di British Petroleum, che appunto continua a pagare l'incertezza visto il disastro nel Golfo del Messico. Sembra che la società potrebbe decidere di ridurre o non distribuire affatto il dividendo, insomma, quindi queste cose hanno penalizzato il titolo e a cascata la borsa di Londra, mentre tutte le altre piazze europee hanno segnato guadagni superiori al punto percentuale. Ancora tra i titoli Pirelli, diciamo più 4,3%, Pirelli Real Estate, oggi com'è andata? Perché venerdì ha fatto un più 7%, no? Se non ricordo male. Oggi, sì, oggi è comunque andata bene perché ha fatto un guadagno superiore al 4%, ma è andata bene oggi soprattutto Pirelli perché gli operatori iniziano a fare i calcoli di quando la società non controllerà più la partecipata nel settore immobiliare, per cui non dovrà più subire lo sconto holding, ma sarà un produttore di gomme a tutti gli effetti, e per cui insomma il titolo oggi ne ha beneficiato, visto che sul finire della scorsa settimana non solo sono stati confermati i piani, ma sono state anche fissate le date per le assemblee per l'approvazione definitiva dell'operazione, sono state fissate a metà luglio. Ancora, l'euro in rafforzamento a quota 1,2280, netto rafforzamento oggi, penalizza un po' chi più esporta, Bulgari invariata, Luxottica meno 0,1%, Autogrill però no, eppur facendo metà del fatturato in dollari, più 3,35%. Sì, allora, a penalizzare Luxottica e Bulgari e sì il rafforzamento relativo dell'euro che ha ripreso quota, ha guadagnato l'1,22, ma a penalizzarli è stata anche i conti abbastanza deludenti diffusi venerdì da Damiani, quindi l'operatore del lusso ha mostrato ricavi consolidati in calo del 2,7% e anche un margine operativo lordo negativo. Si trattava dei risultati del periodo dell'anno 2009, per cui questo, diciamo, come termine di paragone ha finito di penalizzare anche Luxottica e Bulgari. Allora, Guido Marino, mancava forse la risposta su Unicredit, oggi migliore tra i titoli bancari, migliore anche non di poco. Sì, appunto, oggi il titolo ha guadagnato il 5,14%, gli operatori ci segnalano che sono in atto su alcune ricoperture sul titolo, che nelle scorse settimane, se ricorderete, era stato molto penalizzato, era sceso fino a 1,5 euro, poi diciamo che nelle ultime 5 sedute, nell'ultima settimana ha ripreso oltre il 15% del titolo, e questo spiega insomma un po' l'attenzione che oggi ha avuto Unicredit. Va anche detto che il presidente dell'istituto di credito RAMP ha rassicurato anche in prospettiva di Basilea 3, ha spiegato che gli aumenti di capitale sono già stati fatti per l'istituto bancario e si è quindi detto rilassato rispetto all'introduzione della nuova normativa che potrebbe richiedere capitale aggiuntivo agli istituti di credito. Questo per quello che riguarda Unicredit, bene anche le altre banche, citavamo Generali, il Banco Popolare più 3,3%, bene ma non così forte, Intesa San Paolo, bene comunque, più 2,90%, cito ancora altri titoli, Geox in recupero più 3,47%, e ancora Saipem più 3%, Eni più 2,5%, Exor più 2,4%, Mediolanum più 2,3%, Buzzinice in più 2%, Enel più 2% in assoluto. Il miglior titolo a Cell Therapeutics più 32,6%. Che è successo a Cell Therapeutics? è ancora il Pixantrone, il farmaco antitumorale di Cell Therapeutic. Oggi è arrivata la notizia che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la produzione nello stabilimento di Nerfarma per il Pixantrone, e questo ha dato una forte spinta al titolo, che ha faticato a fare prezzo per tutta la giornata. Ciccolella più 15,7% e stagione di fiori? Ma no, noi diciamo non ci segnalano nessun motivo particolare, sono titoli che ogni tanto ci riservano anche queste sorprese. Vabbè, CDC Point più 9,3, Credit Agricole più 9,2, Mondo TV più 9,2, Intech più 8,17, Best Union Company più 7,40%, fronte opposto invece... Abbiamo Monriff meno 4%, Autostrade Meridionali meno 3,80, Unilever meno 3,4%, Poltrona Frau meno 2,70%. In una battuta, Guido, Fiat bene sia su Exor più 2,40% che su Fiat più 3,30%, nonostante la FIOM non abbia ancora sciolto, diciamo, le riserve o fatto capire se ci siano margini per firmare. Sì, per Pomigliano d'Arco, dico. Chiaro. Diciamo che da quello che ci dicono le sale operative, comunque sono ottimisti sul fatto che con la FIOM o senza la FIOM si raggiunga un accordo per Pomigliano, per cui si sblocchino gli investimenti. In più c'è sempre la questione che va avanti il progetto per avere, insomma, le due Fiat, quella con l'auto e la parte di Fiat Industrial entro il primo gennaio del prossimo anno, e anche questo, insomma, ha messo in luce il titolo oggi. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo in tema di occupazione, non per occuparci in questo caso solo di Pomigliano d'Arco, ma in generale delle tensioni sul paese, nel caso specifico dell'occupazione in Lombardia, nella parte più produttiva del paese. Oggi si è tenuta infatti l'assemblea dell'associazione degli industriali dell'area di Milano, che è l'asse lombarda, la più importante delle territoriali in Confindustria. Dico la più importante perché, insomma, la Lombardia da sola, pur avendo un settimo della popolazione, realizza un terzo dell'export dell'intero paese, e da sola la Lombardia produce beni e servizi per un valore che è pari alla somma di tutte le altre sei regioni del nord. La disoccupazione è però al 6,5%, e prima citavamo la mappa della crisi occupazionale, e insomma nella regione Lombardia ci sono almeno 3.700 lavoratori a rischio nelle aziende. I lavoratori lombardi licenziati tra il gennaio 2010 e marzo 2010 sono stati 16.200, un 16% in più rispetto all'anno prima e un 66% in più rispetto al 2008, al periodo gennaio-marzo 2008. E questo senza tener conto dei contratti a termine non rinnovati, e poi la cassa integrazione, che comunque, insomma, tra cassa ordinaria e straordinaria ha fatto un più 48%. Le domande di cassa in deroga, quella riservata alle piccole imprese, sono state 24.342 per 160.000 lavoratori coinvolti. E allora grazie per averci raggiunto ai nostri microfoni il presidente della Solombarda, appunto l'Associazione delle Imprese Industriali del Terziario dell'area milanese, Alberto Memartini. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Lei oggi ha tenuto la relazione dell'Assemblea, molti temi toccati in primo luogo, poi parliamo anche della manovra finanziaria dopo il traffico. Sul fronte occupazione, ferma restando la difficoltà complessiva del Paese e della Regione, siete leggermente più ottimisti oppure ancora c'è tutta la coda del 2008 a cui state assistendo? Beh, c'è ancora la coda, direi tutte e due le cose, c'è ancora la coda, e comunque però vediamo segnali di ripresa, sta riprendendo l'export, sta, insomma, riprendendo un numero di settori maggiori di quanto avveniva alla fine del 2009, e quindi dovremmo gestire con molta attenzione questi problemi di transizione. Ecco, vediamo un futuro, insomma, un po' meno difficile anche dal punto di vista occupazionale. Per quello che riguarda la manovra del ministro Tremonti, bene la manovra, ma Ma noi speriamo che nel proseguo di esame della manovra, in cui ci interessano i saldi, insomma sono evidentemente risorse che era indispensabile toccare, immaginiamo e speriamo che ci sia un principio di equità per cui a livello di amministrazioni siano premiate, ecco, se, con un minimo di capacità di andare a fondo, siano, diciamo, meno toccate le istituzioni meno virtuose. Anche in un momento di crisi, quindi una manovra di questo genere, ripeto, che nella sua dimensione è indispensabile, occorre salvaguardare il principio che non si può penalizzare chi è stato più virtuoso, ma sono confidente che su questo si troverà una soluzione. Quindi anche a livello di finanze locali. Le altre domande su che cosa è possibile ottimizzare nella manovra e anche sulla lotta all'evasione, c'è chi ha scritto: gli industriali ricordano poco, quando ci sono le assemblee, i convegni, noi siamo reduci da Santa Margherita, l'importanza della lotta all'evasione. Da un lato, in che cosa è ottimizzabile questa manovra, e dall'altro cosa risponde chi dice sì, bene le proposte, le critiche anche che arrivano da Confindustria, ma parlate troppo poco di lotta all'evasione in una manovra che è tutta, diciamo, su enti locali e lavoratori dipendenti. Beh, la manovra, come dicevo, si può ottimizzare cercando di discriminare tra istituzioni locali virtuose e non virtuose, cioè il taglio uguale per tutti sostanzialmente non va bene, ma ripeto, su questo sono ottimista. E quanto all'evasione fiscale, è uno dei temi secondo me cruciali, su questo noi siamo molto impegnati a Sombada, lo saremo ancora di più. Non possiamo in nessun caso ammiccare all'evasione fiscale come qualcosa che tutto sommato sostiene l'economia. L'evasione fiscale congela risorse, non le libera, è un freno allo sviluppo, oltre che evidentemente una dimensione etica. Io penso che questa crisi abbia riposizionato l'impresa nella considerazione sociale, e l'impresa deve essere all'altezza di queste aspettative. Credo che l'evasione fiscale sia il primo punto su cui misura concretamente la volontà delle associazioni e degli imprenditori di svolgere ancora una volta, insomma, un ruolo positivo nello sviluppo del paese, ma su questo non ci possono essere tentennamenti, quindi noi tutto ciò che poi è concretamente per l'evasione fiscale lo sosterremo, proporremo anche nuove strade, insomma è uno dei temi fondanti il lavoro dell'associazione, in particolare di Assolombarda e in generale di Confindustria. Ecco, un altro tema, oltre, diciamo, all'accordo sul contratto di primo e secondo livello che ha contraddistinto la Confindustria in quest'ultimo anno, ha riguardato, per iniziativa, va sempre riconosciuto, soprattutto inizialmente delle associazioni territoriali del sud e siciliane, mi riferisco a Ivanoe Lobello, ma non solo, questa forte posizione contro la penetrazione della criminalità organizzata, l'espulsione per chi paga il pizzo. Anche qui delle volte si è detto da sud: stiano attenti gli industriali del nord a non pensare che la criminalità sia solo problema o cosa nostra, per giocare con le parole. Ecco, lei oggi nella relazione ha denunciato che solo negli ultimi 2 anni, anzi meno, 1 anno e mezzo, le imprese in Lombardia sequestrate alla mafia sono state più di 2.000 e quelle confiscate 165. Anche qui farete vostra quella che è l'iniziativa presa su base regionale in Sicilia? L'abbiamo già fatta nostra, esatto. Devo dire. Assolombarda è stata la prima associazione da qualche mese a recepire, diciamo, queste norme statutarie contro la criminalità organizzata. Guardi, per 2 motivi noi abbiamo voluto essere i primi. Primo, perché appunto confinare i problemi etici in casa degli altri non è né bello né giusto, e secondo perché la Lombardia, con la dimensione di attività economica che ha, è certamente una regione attrattiva per chi vuol fare del business non lecito. Noi su questo abbiamo chiuso una porta molto fortemente, ripeto, io ho seguito il lavoro di Lobello da qualche anno, ho chiesto appunto che Assolombarda fosse la prima associazione. Sarebbe sbagliato veramente sempre pensare che l'etica passa attraverso confini amministrativi, questo è sciocco pensarlo, quindi anche su questo penso che Assolombarda voglia essere assolutamente in prima linea. Presidente Meomartini, un'ultima domanda che riguarda l'economia ma anche la politica economica e la politica tout court, e lei sa dove voglio arrivare. Perché dopo l'intervento di Montezemolo venerdì a Santa Margherita Ligure, che ha detto: attenzione, gli imprenditori non possono sempre rifiutare il ring della politica, non possono stare solo seduti come spettatori. Lei oggi ha da un lato citato Tucidide nel discorso di Pericle dicendo: beh, noi consideriamo chi non partecipa alla comunità non già inerte ma inetto, in pratica un incapace, e questo è sembrato dire l'imprenditore deve scendere anche nell'agone politico. Ci aiuta a darci un'interpretazione così autentica dire, a questo no, punto? Volevo dire semplicemente questo, che fare politica la si fa facendo il proprio ruolo, la propria responsabilità, in questo caso di imprenditori, collegandosi con gli altri, non dividendo la società in noi e gli altri. Questo modo di intendere per esempio l'impresa come parte di una comunità è insomma la cifra del mio, penso, del nostro lavoro associativo. Quindi volevo semplicemente dire che la politica rientra in un modo di fare il proprio lavoro, cioè collegandosi con altri, cercando reti, cercando accordi, cercando coesione. Quindi semmai volevo dire l'opposto, non c'è bisogno di scendere ring è un termine che non mi piace, diciamo. E penso che facendo bene il proprio dovere, vale a dire collegandosi con gli altri momenti della società, con le altre istituzioni, con gli altri protagonisti, a partire da quelli di lavoro, arrivare alle istituzioni di governo del territorio e a quelle culturali, così si fa anche politica. Intendevo dire che non ci si può isolare. Ma quindi sbaglia Montezemolo oppure sono strade diverse? Io penso che non sbaglia nessuno, ognuno ha le sue idee. Guarda, io ho molta stima di Montezemolo, molta stima di Emma Marcegaglia, ho lavorato e sto lavorando con tutte e due, quindi non, in questo momento è così importante per me la ricerca di coesione che francamente non riesco a vedere antagonismi da questo punto di vista. Penso che facendo bene il lavoro di impresa, facendo bene il lavoro dell'associazione nel modo che intendevo, creando un baluardo contro l'infiltrazione della criminalità, cercando di collegarsi a tutti i momenti sociali, anche questo sia un modo di fare politica. Detto in altre parole, per fare politica non c'è bisogno di entrare in governo. E però è sbagliato, se ben capito, il disimpegno, cioè pensare, io penso alla mia attività, alla mia fabbrica, alla mia azienda. Esattamente, cioè il disimpegno è comunque e sempre sbagliato. Cioè, ciò che conta oggi, l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo sentito tante volte molti interlocutori, non è una singola eccellenza, è la coesione sul territorio. Il territorio è fatto di legami, non può pensare nessun imprenditore di poter fare bene il proprio business se non si collega nella società. Su questo non ci sono dubbi. E guardi che una delle cause della crisi è stata anche questa, cioè considerare che si possa fare il proprio lavoro senza collegarsi con gli altri istanti, momenti, protagonisti della società. Però devo dire che mi sembra che Milano questa volontà di coesione la stia ritrovando. Quindi da questo punto di vista, tornando alla prima domanda, esprimo un ottimismo ragionato e penso anche ragionevole, ma certo non considerare che si possa esaurire il proprio lavoro restando all'interno del confine della propria azienda. Grazie, speriamo che appunto lei abbia ragione, noi ce l'auguriamo tutti. Grazie al presidente dell'Asso Lombarda Alberto Meomartini. Grazie a voi. Ed è veramente tutto per questa puntata, ancora non ci sono novità su Pomigliano d'Arco, a me non resta che augurarvi buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi ha presentato Focus Economia.